prima fila ad ascoltare me. Da solo non c'era altro intorno a te, e a tutte le canzoni mi guardavi, ma ti eri perso. Quegli occhi stavano aspettando che finisse quel concerto inutile. Avevi nella testa solo un pensiero ed il suo nome. È rivenuto a raccontarmi che avevi perso lei e ti chiedevi se quel Dio in cui tu credi avesse avuto mai qualche rimpianto. Mi stringevi nella mano una lettera con dentro i tuoi pensieri dedicati a lei. Guardandomi negli occhi mi dicesti fanne una canzone. Fallo per me. Soltanto tu.